Per cui vabbè, va benissimo. Cosa ci raccontiamo oggi in questa 315esima o 16esima puntata di Coxo Spaziale? Che fra l'altro io stavo cercando un documento sul mio drive ed è scomparso. Perché? Cos'è? Ed è già partita questa musica. Ah, questa è sottofondo, ecco, l'altra era molto bassa. Ecco. Ma la teniamo solo di sottofondo, questa musica bellissima? Sì. Ah, peccato. Perché è bella. Ah, sì, ok. Sì. Vabbè, la teniamo di sottofondo. E, io non so, non sento più niente neanch'io. Adesso provo ad alzarmi le cuffie a vedere se si capisce meglio. No, ma io qua questo lato del nostro separatismo in casa tutto bene. Ah, ok. Allora sì. Forse sono io che ho qualche così. Di che cosa parliamo oggi, allora, Fedra? Fedra. Sì, Fedra. Esatto. Mi sono incarnata addirittura per confondere ulteriormente. Che rincoglionimento. per l'ascoltatore succede. Attento sicuramente saprà distinguere Fedra da c'è. Esatto, da chi sarà la CD Boscaro? Vabbè, lo sappiamo tutti però chi non lo deve sapere non lo sa. Molto bene. Bene, allora questa sera parliamo di vette. Vado con questo file. Vai con questo file. Non possiede elevata maturità artistica ed appare troppo sbilanciata sul piano delle curatele di mostre e sulla divulgazione scientifica. Mi piaceva molto come il lettore interpreta curatele di mostre. È bellissimo. Devo dire l'idea una proprio delle poche cose buone di Google in assoluto proprio è questo, sì, è il lettore. È fantastico. Sì. Tra l'altro ho notato che noi abbiamo una voce maschile, mentre la stragrande maggioranza degli altri paesi ha una voce femminile. Mi domandavo in base a cosa optano, cioè, sapendo che noi siamo maschi, esatto, cioè l'italiano. Presumo che abbia a che fare con questo. No, anche perché probabilmente dicono questi maschilisti di merda degli italiani, se gli mettiamo una voce femminile poi si innamorano, la vanno a cercare, la stalkerano, eccetera eccetera, per cui io presumo che abbia a che fare con questo. Che può avere a che fare con questo? Vabbè, approfondiremo, magari lo chiediamo a Google, così poi potremmo chiederlo a Google, lo chiediamo effettivamente a Google. Vediamo se ci risponde. Allora, a chi si riferiva Pasquini questo spietato giudizio, questa valutazione così tranchant sull'impreparazione? Si riferiva a Angela Vettese, che per la terza volta è stata bocciata. Al concorso per professore ordinario all'università. Esatto, che è una cosa abbastanza clamorosa, vero? Siamo tutti un po' storditi e abbiamo messo questa cosa in linea con la questione di Germano Celant. Sì, esatto. No, siamo tutti molto storditi, più che altro perché, per chi non lo sapesse, Angela Vettese, oltre qui a Bologna, aveva diretto Arte Fiera per un paio di anni, ma è uno status symbol, diciamo, dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea, cioè, esatto, quasi è Angela Vettese. No, esatto, io ricordo benissimo infatti che tu hai imparato l'arte contemporanea da Angela Vettese. Io ho imparato l'arte Io non posso dire la stessa cosa perché... Sì. Perché sono un po' più vecchio. Io ho iniziato leggendo Artisti si diventa, che è una delle sue pubblicazioni più celebri, una delle cause di questo spietato giudizio, perché era effettivamente qualche cosa abbastanza rivolto a un certo... Ma forse non è quello più divulgativo, perché era comunque per addetti ai lavori, però tentava di spiegare, insomma, qualche cosa anche al di fuori della nostra cerchia, di che cosa fanno gli artisti, chi sono gli artisti, ci sono gli artisti. Non lo so. Tu sei un artista? Io sono un artista, cioè, o almeno ci provo a esserlo, a farlo. E stavo cercando il mio drive, ma non lo trovo. Ti sei perso completamente all'interno di ogni strumentazione. Eccoci qua. Quindi a noi ci sconvolge. Quindi sì, magari certo. Ad altri non sconvolge ma infatti questa cosa. Però bisognerebbe spiegarlo sconvolti. Un po' meglio, forse, questa faccenda. Cioè, ovvero la persona, cioè, diciamo, nel mondo dell'arte, tra i teorici dell'arte, una delle persone più importanti in assoluto è Angela Vettese, per cui anzi, io in realtà pensavo che addirittura lei fosse già professore ordinario all'università. Io l'ho scoperto in occasione della prima bocciatura, cioè quando capitò, adesso non ricordo quanti anni or sono, che fece il primo tentativo, io dissi: ma oibò, ma non è ordinario la Vettese, cioè sembrava impossibile, perché lei unisce, ha sempre unito questa veste, diciamo, accademica alla sua attività invece curatoriale di forte presenza anche sul piano delle pratiche, cioè della pratica curatoriale, del mettere le mani in pasta, come si suol dire. Senti, ma c'è un internet qui da questa parte? Sì, certo, devi solo cliccare su Firefox, perfetto, esatto. Sì, sì, no, scusate, no, ma figurati, certo, ma tanto non ti preoccupare, perché ecco. Io in realtà devo fra non molto devo parlare di questo gruppo bolognese che si chiamano Savelli e No Stress. Allora, per non saltare di palo in frasca, magari esatto. Finiamo. No, infatti, per cui peccato che non trovo più il comunicato stampa a cui ho detto a Francesca: ma certo che ce l'ho, me l'hai già spedito. Sì, eccetera. No, è che io intanto trovo, stavo andando su Wikipedia a vedere che Wikipedia Angela Vettese c'è, quindi a tutti gli ascoltatori suggerisco di andare a vedere chi è. Se per caso non sapete chi è Angela Vettese, esatto, e siete interessati all'arte contemporanea, andate su Wikipedia. Questo potremmo dirlo anche magari a quelli che l'hanno giudicata male. Magari possono andare a fare un giro su Wikipedia, dove c'è anche perché la bibliografia è abbastanza striminzita, sai cosa? Che questi io tra l'altro devo dire che un po' in questa vicenda dell'Angela Vettese insomma comunque mi dispiace, perché ovviamente è grave questo fatto. No, è grave perché fatto. Poi fra l'altro sembra quasi un voler mettere da parte l'arte contemporanea, perché diciamolo che non c'è un'università di arte contemporanea in Italia. No, oltretutto la Vettese è una di quelle che, riagganciandoci alla puntata a tre puntate fa che parlavamo del forum, certo, è una delle persone che si è spesa vanamente a quanto pare per la questione dottorato nel campo dell'arte contemporanea. Lei era una forte sostenitrice di questo. Non solo, è anche una delle poche che vuole raccontare l'arte contemporanea al grande pubblico. Infatti era tra le organizzatrici di Faenza Contemporanea, se non sbaglio, giusto? Esatto, il Festival dell'Arte Contemporanea di Faenza, che era fantastico, ma purtroppo è cambiata la giunta a Faenza e hanno tolto il Festival dell'Arte Contemporanea, perché non valeva la pena di spendere i soldi così, pareva. Invece, insomma, esatto, forse saremmo un po' meno ammantati di oscurità se ci fossero più di questo tipo di iniziative. Comunque volevo leggere un po' di queste cose lei ha scritto, capire l'arte contemporanea. Adesso non le leggo tutti, però insomma per dare un'idea del taglio, capire l'arte contemporanea, artisti si diventa, che la tua Bibbia per diventare artista. Cioè, io a dir la verità poi non ero del tutto tuttissimo d'accordo su vari punti, ma insomma comunque è un testo fondamentale. No, perché sembrava un po' che gli artisti affermati, cioè ne veniva fuori quest'idea che gli artisti di talento sono quelli che si affermano e non il viceversa. Ecco, mi sembrava un po' che corresse questo rischio, però insomma sì, adesso che è un po' una dicitura che succede nel mondo dell'arte contemporanea. C'è un po' questo che secondo me è un po' tagliato le gambe a tutto il discorso, questo tipo di sfumatura, però non c'era sì, solo questo, diciamo, che libro. Ha tagliato le gambe agli artisti timidi in questo paese, su questo sì, non c'è dubbio. Indubbiamente è così. E comunque un libro importante per soprattutto per chi magari ha iniziato a studiare arte da giovane, e non come me, che io l'ho fatto alla fine di tutta una serie di altre cose, quindi ormai era troppo tardissimo per tutto. Scrive Giffo che si deve comprare un paio di ciabatte nuove. Giffo mi ha detto anche che deve intervistare qualcuno, non so se era stasera. Però adesso magari se gli chiedi, però anche lui di sbrigarsi. Può mandarmi un vocale su WhatsApp, come esatto, tutti. E poi c'era anche: a cosa serve l'arte contemporanea? Ma questo è un quadro, si fa con tutto. Insomma, sono titoli che danno abbastanza l'idea dell'apertura verso un pubblico non di specialisti, che sarebbe importante che capissero che cosa diamine facciamo. Ma io ti dicevo anche di sentire... Sì. Che cosa dice Angela Vettese, che secondo me poteva un po' essere una risposta a questo giusto, sentiamolo. Giudizio. Il quadro o la scultura nella quale noi identifichiamo l'arte visiva sono forme ottocentesche. In realtà sono forme anche precedenti, ma si affermano come canoni nell'Ottocento. C'è un errore di prospettiva che si ha nel senso comune, perché il nostro senso comune è molto molto modulato su questo secolo strano che è stato l'Ottocento, che forse non è stato il secolo più significativo, ma è molto fondativo per le nostre idee oggi. Però ha una bella voce. Ha una bella voce, devo dire che infatti dovremmo invitarla a Coxo Spaziale a parlare, sì. Però dovrebbe veramente sfogarsi su questa cosa, perché io obiettivamente sì. non oso pensare, cioè io che sono stato messo molto in basso in molte classifiche di insegnamento di pittura in accademia, e tutte le volte me le ricordo bene le incazzature, cioè proprio una dopo l'altra, ma io fra l'altro non è che sia particolarmente, cioè, meritevole di essere primo in una graduatoria di pittura, per cui immagino invece, cioè, una come la Vettese, che invece merita di essere non solo prima in graduatoria, ma meriterebbe di essere unica unica no, ma almeno rettore di una no, cioè comunque voglio dire ha una visione alta che vabbè, basta leccare il culo alla Vettese, vabbè, insomma, andiamo avanti. Sì, no, perché poi diventi un po' sospetto, appunto. No? Sì, no, infatti, come sì. Si cade un po' in sospetto, no? Diciamo che sì, sicuramente non, cioè, immagino che non possa averla presa benissimo, però lei comunque è associato, quindi da qualche parte comunque la sua attività accademica la esercita, no? Mentre noi quando siamo fuori da tutte le graduatorie... Non esercitiamo niente. Esatto. Fatto sta che comunque è ora di far sentire una canzone, e siccome questa canzone è qui in occasione dell'uscita di un nuovo video di questo gruppo che si chiama Savelli e No Stress, e sono una band bolognese, ecco, Oscar Moroni dice che deve intervistare la Pellicari. Okay, sì, la Giada Pellicari, che è stata ospite già qui in passato. No, dicevo, parlavamo di musica, che non c'entra nulla con la Vettese, però appunto, siccome siamo una radio e dopo un po' saltiamo, se non metti la musica, no, è che poi... se non metti la musica la gente dopo un po' giustamente cambia canale, perché interessa solo la musica. No, è perché quindi c'è bisogno di musica. Dovremmo fare musica. Dovremmo fare musica, esatto. Fatto sta che ho chiesto direttamente al lead singer Alex Savelli di che cosa parla sta canzone, perché loro hanno fatto un disco nuovo che si chiama Doing Nothing e l'hanno registrato in una torre medievale qui a Bologna, adesso io non so in quale perché non me l'hanno detto, e questo pezzo invece è appena uscito il video, anzi ti dirò di più, il video doveva uscire domattina, ma siccome noi lo stiamo presentando l'hanno fatto uscire in questo momento, per cui, ma per noi, esatto. Beh, appositamente per Coxo Spaziale, c'è da essere onorati. Ma poi tra l'altro pensavo, scusa, Doing Nothing è un po' quello che nell'immaginario collettivo dovrebbero fanno essere fanno gli artisti esatto. Che però non è vero, sì, però comunque... invece il pezzo che sentiamo invece è non ho il titolo del pezzo che sentiamo, com'è possibile? Però me lo spiega lui, me lo dice Alex Savelli qui, guarda, ecco. Senti, Would You Kill Me fa parte dell'album Doing Nothing Live at the Tower di Alex Savelli e No Stress, appena uscito per Radici Music Records. Would You Kill Me, tradotto Mi Uccideresti, tratta un tema che purtroppo non smette mai di essere attuale. Parla di quello che accade o potrebbe accadere in una coppia come tante, dalla sudditanza alla spersonalizzazione completa, alla paura, al dominio assoluto di un elemento sull'altro. Parla dell'esercizio e dell'accettazione incomprensibili di queste deformazioni dello stare insieme, parla di quella violenza privata, domestica, intima, che può anche culminare, come purtroppo sappiamo, nella morte di uno dei due componenti della coppia, morte fisica o simbolica essa sia. Will You Kill Me parla di tutto questo, ma con il lieto fine che tutte le vittime, tra virgolette, dell'amore avrebbero sperato. Come out and freeze me. stesso, giorno stesso rise and light. Where are you dreaming? You ignore me for the plot. You soon take me to the land of bleeding hopes. Just take me, just take me for the same. But how do you feel me? Da da da da, healing. Da da da da, healing. Da da da da, will you heal me? Da da da da, healing. Just hang around tonight. Just hang around tonight. You please help into this cheap day cold and fight. Will you just hold me? Just hold me. Will you just help him find the right? While you kill me, will you decide to draw my votes? Will you absolve me? Those silly Mr. Barney shorts. Will you just heal me? Will you just heal me for tonight? Just stay and heal me. Certo, io non so bene come fa a fare radio uno che non ha la memoria breve. Questa non la capisco. Cioè, Would You Kill Me l'ho letto fino a 5 minuti fa, ma non mi veniva il titolo. Ma l'ha ripetuto 400-500 volte? Sì, ma prima che lui lo ripetesse, io non me lo ricordavo. Suono sì, another thousand falling lights. You just hold me. Just hold me through this life. Well then, kiss me. Comunque si chiamava Would You Kill Me, non so se te lo ricordi. Sì, adesso me lo ricordo. mi ricordo anche un'altra cosa, devo dire, che forse fa parte della memoria a lungo, breve, medio termine, tutti insieme, che il nostro singer ha presentato il pezzo dicendo sì che alla fine uno dei due uccide l'altro. Certo. Spesso volevo ricordare che purtroppo statistiche dati alla mano, molto spesso questo uno che uccide l'altro è il maschio che uccide la femmina. No, ma su questo direi che non ci sono troppi dubbi. Sì, ahimè, purtroppo è così. Purtroppo è così. E, ma dunque, spiegami un po' che cosa, chi è che ti contatta per essere intervistato a Cox Spaziale? Ma non vogliamo fare spoiler così di tutte le prossime puntate da qui fino alla fine dell'estate? No, assolutamente. Non mi sembra una buona idea. Lasciamo tutto nel vago. Piuttosto, invece, volevo dirti una cosa. Mi ero dimenticato di suonare questo. Sarebbe... Ospiti musicali. Perché poi infatti... non è vero, perché sono ospiti virtuali, però era bello, siccome non l'avevo ancora usato questo jingle. Sì, quindi insomma è retroattivo comunque. È retroattivo. Esatto. No, in realtà volevo dire a Alex Savelli, che probabilmente ci sta ascoltando, che lo aspettiamo con chitarra, basso, batteria, voce, eccetera, non appena ci permettono di avere gli ospiti in studio. E allora, per coerenza, chiameremo in quella puntata anche Angela Vettese, così. Esatto. Perché siccome li abbiamo introdotti insieme così arbitrariamente. Così può farci ridere, come Esatto. Come vuole Conte, no? Come vuole Conte, ci esatto. Può divertire. Ci può divertire, ci può divertire. Io devo dire che quando ho letto il giudizio di questa commissione, che col quale abbiamo aperto il tema Vettese, ho fatto un saltino sulla sedia, perché uno dei membri della commissione si chiama, a te non dirà niente questo nome, ci scommetto che a te non dice niente questo nome, okay. Si chiama Giovan Battista Fidanza. Tu sai chi era Giovan Battista Fidanza? Mai sentito dire. Era Nostromo. Nostromo, quello del tonno Nostromo, quello di, no, no, quello di Joseph Conrad. Che livello basso di radiofonia. Cioè, veramente. Nostromo di Conrad. Ma mi ha colpito questa cosa, perché io ho parlato di quel testo di Angela Vettese, Artisti si diventa, nella mia tesi di laurea, dove parlavo anche di Nostromo. Adesso quello che la boccia si chiama come Nostromo. Cioè, lo trovo incredibile. Non sei colpito? Sono colpitissimo. Sono così colpito che devo mettere le pubblicità delle 7:30. Facciamo così. Facciamo così. Adesso sì. Se lo trovo, è qua. Dammi il singolo. Hi there, this is Ignat Ken, and I have a mail art story for you. I was thinking about this funny experience I had. My wife, a friend of my wife's, got married. And we were invited to the reception in the middle of New Jersey, and the bride and the groom had both been postal workers and had met in the post office. So there was a lot of people from the postal service at the reception. And as I kind of got that, realized I was around a lot of mail carriers and postal workers, I became really kind of interested because, I wondered, like, what mail people think. I mean, people who work in the post office think about mail art. Here in New York, it's really impersonal. It's you go up to the window and people just give me a hard time when I'm mailing stuff. And, I don't really, I couldn't really have that kind of conversation with somebody, here in Manhattan, New York, where I live. But this was like in suburbia, middle of New Jersey, and yeah, it was a reception. Everybody was friendly and having drinks and eating food and stuff. So there was a couple of postal workers. One of them was a best friend or somebody who gave him a talk at the wedding. So I knew he's a mail carrier, and I went over to him. They were like just standing there having a cocktail or whatever, and I went over to him and just introduced myself, said, I was a friend, whatever, like this. And there was a couple of, mail workers. And I just said, I'm just really curious, cause what you guys think of mail art, because I'm a mail artist. And, and it was like, boom, everybody just like stone faces, like just conversations all stopped. They all looked at me like I was from like an alien planet or something like that. And I was like, oh, geez, like, they hate mail artists, what did I say? And then it was just this like, uncomfortable silence. And then it occurred to me that they didn't know what I was talking about. And it was like this little uncomfortable thing, like some weirdo just came over and said he was a mail artist, like as opposed to like a female artist or something like that. So I really quickly was like, I make collages and I do kind of, make art and I send it through the mail. And there was three people I was talking to. Two of them looked just baffled, like they didn't know what to say. They're just, I thought they were going to drop their drinks or something. But the third guy, after a long pause, kind of was like, yeah, I think I've heard of that. I've heard of that, he said. And I was like, yeah. Siamo in collegamento whatsappico con Francesco Cavestri, e di cui io so veramente molto poco, nel senso che l'ho cercato su Google, so che è bolognese, so che ha soli 17 anni e so che è un musicista jazz incredibile. Infatti la settimana scorsa ha fatto un concerto al Bravo Caffè, che ha anche inaugurato il ritorno alla tra virgolette normalità del Bravo Caffè. Francesco, raccontami chi sei e cosa fai e come fai a essere un musicista così bravo e talentuoso a soli 17 anni, così da fare concerti nei maggiori posti jazz di New York e in giro per il mondo. Raccontami tutto, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Volevo ringraziare intanto Stefano, Coxo Spaziale e Radio Città Fujiko per avermi invitato. È un grande onore essere qua con voi. E, allora, per rispondere alla domanda, sì, per raccontarvi come suono forse dovrebbe dirlo più chi mi ascolta da fuori. Io al massimo posso proporre le mie sensazioni dagli ascolti successivi ai miei concerti, ma non sono la stessa cosa. Però posso raccontarvi invece quello che è il mio percorso, quindi quello che è stato finora il mio tragitto musicale. E io ho iniziato a studiare pianoforte classico da piccolo, all'età di 6 anni, e l'ho studiato fino poi ai 15, iniziando nel mentre, ho fatto comunque nel mentre, mentre prendevo lezioni di pianoforte classico individualmente, ho iniziato poi in prima media, mi sono iscritto alle medie musicali alle Guido Reni in centro Bologna. E qui ho trovato una professoressa che vorrei menzionare, fare una dedica speciale, un ringraziamento, a Monica Fini, che grazie a lei mi ha indirizzato allo studio del pianoforte jazz al conservatorio, perché aveva visto in me una forte predilezione per l'improvvisazione, per la libertà musicale, insomma, e quindi aveva pensato a farmi fare jazz. Quindi ho iniziato poi il conservatorio e l'ho iniziato in contemporanea con la prima liceo, la quarta ginnasio, in realtà al Galvani, classico, e quindi sto portando avanti questi due percorsi insieme, molto impegnativi ma entrambi molto appassionanti, che mi stanno prendendo tuttora molto. Ma il terzo anno di conservatorio, che corrisponde con questo anno qua, che in realtà si è svolto sì e no, però comunque siamo riusciti a seguire i corsi online, e ho incontrato un professore che avevo già conosciuto l'anno scorso, e il suo nome è Teo Ciavarella. Anche lui vorrei dedicare una menzione, un ringraziamento speciale al mio mentore musicale Teo Ciavarella, che mi ha sempre accompagnato, indirizzato e stimolato nelle mie varie scelte musicali, e mi ha insegnato davvero tanto e continuerà a farlo, sono convinto di questo. Per quanto riguarda le serate al Bravo, ne ho fatta la prima, l'ho fatta a marzo dell'anno scorso, quindi a marzo del 2019, avevo 16 anni, e poi sono seguite tre, con l'ultima che c'è stata appunto proprio pochi giorni fa, ovvero l'11 giugno, il giovedì 11 giugno. È stata un po' una riapertura del Bravo, sì e no, perché poi c'erano già state altre serate al Bravo Caffè, però in realtà sicuramente quella dell'11 giugno, forse anche per lo scorrere dei giorni e delle settimane, è stata un po' quella più densa di persone, quella più popolata, tra virgolette, come serata. Assolutamente tutto in sicurezza, lode al Bravo Caffè, ringraziamento al Bravo Caffè per aver fatto tutto in assoluta sicurezza e aver garantito la salute prima di tutto, ma anche aver fatto ripartire, insomma, è un elemento culturale della città che non è di secondo piano, musicale. Il Bravo Caffè, per quanto riguarda la musica a Bologna, è un punto centrale, molto importante. E questa serata mi sono divertito tantissimo, è stato davvero bello, ho sperimentato anche nuove forme di musica, e chiaramente la quarantena, questo lungo periodo di stop, ha favorito anche diverse ricerche, diverse sperimentazioni che prima era più difficile provare. Invece mi sono divertito molto, e sicuramente risuonare in pubblico dopo così tanto tempo è una sensazione veramente forte. Ottimo, Francesco, ti faccio una domanda da $1 milione, ma il jazz contemporaneo dove sta andando secondo te? Cioè, come vedi il futuro del jazz in tutto questo? Poi dimmi pure tu, ricordati che io sono completamente ignorante di musica. La seconda domanda è adesso, naturalmente, che ci hai incuriosito tutti, vogliamo sentirti suonare. Che cosa ci fai sentire prima di salutarti? Allora Stefano, domanda molto interessante, e si potrebbe aprire una discussione molto stimolante anche secondo me. In breve, il jazz contemporaneo, il futuro del jazz contemporaneo, io lo vedo roseo, ho una visione molto positiva da questo punto di vista, valutando la forza creativa che assale diversi esponenti del jazz, ma insomma anche di tutti i generi derivati degli ultimi anni. Io penso sempre che il jazz da solo sia meraviglioso, ma abbia una forza comunicativa limitata non solo dal punto di vista delle persone che può raggiungere, ma anche proprio come messaggi che può trasmettere, nonostante sia comunque molto più vasta di altri generi, avendo tutto il campo dell'improvvisazione, quindi di riprodurre uno stesso brano sempre diverso, ma comunque ha un linguaggio che più o meno ha dei leitmotiv che si ripetono sempre tali. E quello che io cerco di fare con la mia musica, e che apprezzo anche, che è anche i generi di musica che mi piace di più ascoltare, sono quelli che fondono invece diversi generi. L'idea di un jazz mescolato, tra virgolette mischiato ad altri generi, nasce fin dalla fusion, anche gli anni prima con Miles Davis, che hanno mischiato diversi ritmi, diversi generi, insomma, ma il jazz nasce da sempre così, cercando di mescolare diverse culture, i ritmi africani, la musica popolare americana, quindi insomma il jazz nasce sempre, data sempre dai suoi albori come un mix di diverse culture, di diversi generi. Io credo che si stia muovendo ancora in questa direzione. Il jazz ha dato vita poi al rock and roll, ha dato vita al rap, ha dato vita all'hip hop, ha dato vita all'R&B, ha dato vita a una serie di tanti altri generi, tutti col ceppo della musica black, che trovano anche la loro unione in diversi artisti. Io penso adesso a Robert Glasper, che è un musicista mio, assolutamente il mio musicista preferito attualmente, ed è un pianista moderno contemporaneo che ha fatto uscire appunto un album nel 2019 che è un mixtape con anche diverse tracce che sono puramente hip hop, quindi proprio mescola tantissimo e viaggia all'interno della musica. E poi per esprimere questa mia intenzione di muovermi moltissimo e di navigare, tra virgolette, come farebbe Glasser, non nel mondo della musica, io nella descrizione della serata al Bravo avevo chiesto di inserire proprio la frase che noi, insieme a Max e Red, che sono i due musicisti con cui ho suonato, non abbiamo, siamo un trio consolidato, ma non abbiamo un genere prediletto se non quello del jazz, ma ci piace muoverci all'interno di tutto, del vasto mondo della musica. Quindi io credo che sono molto fiducioso nel futuro del jazz, nel futuro della musica colta in generale, se così si può definire il jazz, perché comunque cerca di intersecare diverse strade e di intraprendere percorsi via via più creativi, come ha sempre fatto. E il jazz classico è bellissimo, assolutamente va studiato, infatti al conservatorio si studia il bebop e tutte le correnti musicali jazzistiche degli anni 60, 70, anche prima, 50, ma va anche assolutamente, secondo me, accompagnato, coniugato con, come dicevo prima, con altri generi più moderni che si espanderanno. Questo cercando chiaramente di mantenere sempre una qualità musicale, un livello musicale piuttosto alto. Poi, rispondendo all'altra domanda, il pezzo che adesso vi andrò a proporre è un brano che ho suonato proprio l'11 giugno al Bravo, un brano di Herbie Hancock, e il brano si chiama Butterfly, è uno dei miei brani preferiti assolutamente di questo grandissimo pianista, e volevo proporvelo in una versione inedita, Butterfly. Thank you. Very good, Butterfly Arbianco. Questa è la Butterfly di Arbianco. Francesco Cavestri, naturalmente anche a lui lo ringrazio, e anche a lui l'invito è che quando si potrà venire in studio, di venire a fare sti sleghi con il piano elettrico, magari direttamente in studio, sarebbe fantastico. Quando si potrà tornare in studio ci sarà una puntata in cui saremo in 100 qua, in 100? Con tutti quelli, no, che... tu ci scherzi, ma l'abbiamo fatta, eravamo quasi in 100 una volta. Beh, non no male. Dicevo, mi è piaciuta anche questa professoressa che capisce che lui è bravo all'improvvisazione, e dunque in un certo senso gli cambia la vita, no? Lui ha 17 anni, cioè, per cui insomma stiamo parlando di cinni di, come quelli che insegni, a cui insegni tu. Tu non fai nulla di tutto ciò. Non faccio niente del genere, esatto. Nella maniera più assoluta. Esatto, nega di avere mai insegnato Io invece volevo ringraziare Maria Nicoletti, mia prof delle medie di italiano. Mi sembra un bel gesto, vedi, esatto. Le professoresse, vedi. Che importanti, esatto. Che sono e invece. Anche Maurizio Magli, mio prof di storia dell'arte del liceo artistico. Adesso io non sono preparata, non so chi ringraziare dei miei professori, comunque. Io non ho capito perché non c'è più la musica di sottofondo. Prova a smacchinare un po' di là. Non saprei che cosa. Non vorrei far esplodere tutto. C'è una leva qui, cosa devo fare? No, non lo so, non vedi. Vabbè, salutiamo gli ascoltatori. Le canzoni che vanno. Non ci sono delle canzoni che vanno nel tuo computer. Assolutamente. Ma non era neanche previsto, cioè doveva essere previsto. Sì, funziona così. La musica di sottofondo va dal computer che è di fronte a te. Guarda, non so aiutarti, io sono una neofita, sono stressata alla mia terza. Metto un pezzo di autoradio anche perché mancano 5 minuti e stiamo per. Ecco, manca 5 minuti. Mancano cos'altro, 5 minuti, cos'altro devi dire? Devo tu? Dire questo: che siccome questa vicenda in cui Nostromo boccia la Vettese mi sembra una fiction veramente surreale, e, dicendo che è troppo sbilanciata sulla curatela, io ho selezionato la voce cura nell'interpretazione di Nina Fiocco e la leggo e vediamo poi se la Vettese magari si riconosce in questa definizione. E ascolta anche tu che poi mi dici se secondo te si riconosce. Agire sulla soglia, lasciare la porta di casa socchiusa, correre il rischio, spazzare il pavimento ma anche il pianerottolo, le scale e il marciapiede. La leggo tutta? Sì. Confondere la differenza tra dentro e fuori, tra il mio e il tuo, ma riconoscere e rispettare la geografia della nostra esistenza e di quella degli altri. Non dimenticare le ragioni delle lotte specifiche di ciascuno, provare a ascoltare tutti i giorni, esercitare la voce e non temere di lasciarla uscire, saper unire la propria voce ad altre voci, cercare di non definire, abbracciare l'incertezza come unico paradigma. Quindi se la Vettese ha fatto tutte queste cose e poi è stata anche bocciata, veramente io questo Nostromo direi che possiamo farne del tonno di lui. Esatto, possiamo farne del tonno. Capisco. E io dunque qua cosa succede? Coxo Spaziale sta per terminare. Non so, avevi qualcos'altro, perché so che la prossima settimana forse siamo distanti. Allora dobbiamo preparare gli ascoltatori attenti, ma soprattutto l'ascoltatore esigente tipo Oscar Moroni, che ringrazia Oscar Moroni. Ringrazio Oscar Moroni, di cui ho molta stima, e magari la prossima puntata la fa lui, così intervista già da Pellicari. Ma lui è timido, non mi manda mai dei vocali, non ma so questo perché. È un peccato, perché infatti ci sarebbe spazio nel palinsesto. Dunque dobbiamo preparare gli ascoltatori a questo ponte di 6 settimane 7 settimane in cui o io o tu non ci siamo, per cui non bisogna ci saremo fare mai tutto più contemporaneamente. Quindi se l'assetto non della so, trasmissione Fedra, se vuoi venire dal Veneto a riempire dei buchi, ma in realtà a questo punto però ci possiamo sentire tutti per telefono, via Skype. Io preparerei gli ascoltatori soprattutto a un calo della qualità audio. Secondo me questo è il punto più importante. Non che la qualità audio sia particolarmente entusiasmante quando siamo in studio, però sicuramente è meglio che quando siamo su Skype o su Meet, che è ancora peggio. Ecco, però comunque continueremo ad esserci, no? A palesarci in qualche forma nell'iperspazio radiofonico. E dunque quello che c'è da dire è che niente, che ci sentiamo, Coxo Spaziale è finito, andate in pace, è andata così, ringraziamo la misteriosa K che ci ha fatto da co-conduttrice, e poi ringraziamo anche Francesca Grispello e Norma Waltman, che ci hanno praticamente occupato la trasmissione oggi facendoci sentire un sacco di musica che altrimenti non avremmo suonato. Ringraziamo Angela Vettese per esistere. Ringraziamo Angela Vettese per esistere, per aver scritto nonostante tutto dei libri di divulgazione, e speriamo che questo divorzio tra insegnamento e pratica non debba consumarsi completamente. Sì, non sarà definitivo. Sarebbe una cosa un Anche po' disastrosa. Come tutti sanno, non c'è due se senza tre. Un minutino, e il 4 viene da sé. Vai di minutino. Se vai. Andiamo del minutino, perché. Ma veramente un minutino. Un vai. Minutino, mi era venuta fuori questa cosa di Alvise Bittente, che è un artista indovinate di dov'è Alvise, si chiama? Io lo so. Ma è facile per chi conosce, vabbè, comunque okay. Noi non lo diciamo, lasciamo un po' nel vago, poi l'ascoltatore attento ci dirà. Okay. che dice su Facebook in risposta alla pubblicazione di questa cosa, sempre sulla bocciatura, che in realtà è la Vettese che ha condannato all'insegnamento i commissari, eccetera. E io però non sono d'accordo su questa visione, cioè l'insegnamento non sono quasi mai d'accordo su quello che dice. Deve andare di pari passo, perché se divorzia l'insegnamento dalla pratica e dalle pratiche, cioè dopo si consegna tutta la pratica culturale all'elite. Questo è il sunto della questione. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Sei d'accordo con me? Non sei d'accordo con Alvise? Esatto. Però no, gli vogliamo bene lo stesso. Ma ciao, sì, certo. Alvise, no, infatti. Molto bene. E dunque salutiamo anche il nostro direttore di radio che ci dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E la sigla è Teresa Teng, che suona, che canta Tian Mi Mi. Io ero Stefano W. Pasquini e questa era Coxo Spaziale. Yeah, me.